voglio che vi rendiate conto di tutti i suoni che provengono dall'esterno della stanza. Don't touch those! Don't you ever touch my balls without asking! È notorio che esista il diritto di cronaca, no? Però è anche notorio, forse un po' di meno, però è necessario ricordare anche il dovere di cronaca. Per esempio, dover dire che è uscito il nuovo disco dei Mudhoney, band che ha avuto in passato delle cose da dire, probabilmente adesso, a essere severi, potremmo dire che di cose da dire ne hanno veramente molto meno, però perlomeno dobbiamo fare cronaca e rendere omaggio ad una nuova uscita per Sub Pop come questa Under a Billion Suns, il nuovo dei Mudhoney, da cui ci siamo ascoltati la traccia numero 2 intitolata It Is Us, che ha anche avuto l'onore di aprire la seconda parte di Eclettica in compagnia di Giulio Caperdoni. Giulio Caperdoni che già ha ricordato nella prima parte quali sono i biglietti dei concerti come i Breaks e UFO Mammut che potete vincere questa settimana, e ricordato anche come in arrivo il 12 aprile un concerto che invece sarà gratuito e pertanto, visto che è un nome a cui è legata Eclettica in questa sua 12ª stagione, mi sono messo d'accordo e ringrazio la DNA Concerti per questo, di poter farvi recapitare qualche copia, per potervi far recapitare qualche copia del disco dei Mazarin che tanto ci siamo ascoltati con The New American Apathy, e proprio questa ci stiamo per riascoltare in Eclettica. Se volete ricevere questo disco, scrivete a giulio@radiorockfm.com. non è effettivamente facile trovare una band che arriva dall'Arkansas, ed è il caso invece dei The Gossip. Fra l'altro hanno sì una vocalista straordinaria, una cantante straordinaria, Beth Ditto, però da par suo non ha un fisico che la sostiene, ma mi piace come lo mostra, perché sicuramente non se ne fa un problema, dice: io sono la mia voce, tutto il resto non conta. Hanno registrato questo disco, soprattutto il brano che ci siamo appena ascoltati, Standing in the Way of Control, nei Seattle's Bear Creek Studios, gli stessi dove Lionel Richie registrò Dancing on the Ceiling, e dicono che c'era il groove in quella stanza, e quindi quel groove hanno riportato nella loro musica. Produzione da parte di Guy Picciotto, Fugazi e Ryan Headlock, che produsse anche Strokes, Stephen Malkmus, Blonde Redhead. Il tutto inciso per la Lado, noi ce lo siamo ascoltati nella versione che già vi avevo preannunciato, remix da parte delle Tigre. Giulio Caperdoni nella seconda parte di Eclettica, che vi ricordo essere disponibile esattamente anche come le pillole giornaliere in versione podcasting. Trovate qualche dettaglio sul sito, ma sapete anche di avere a disposizione lezioni private da parte mia. Ora sono un po' in difficoltà perché non trovo la copertina del disco che ho deciso di trasmettervi. Eccola là nell'angolo, vediamo se riesco a allungare la mano senza allontanare la bocca dal microfono. Fatto. È il nuovo disco per Stout Music a nome Feldman, il nome è assolutamente nuovo del gruppo, non dell'etichetta. Watering Trees, il titolo dell'album in uscita in questi giorni di aprile, che vede assieme una coppiata di siciliani, Massimo Ferrarotto, è già passato sotto altre vesti qua in Eclettica negli anni, prima come Puerto Rico, poi come Loma, e anche il secondo nome, sempre siciliano, è già passato sotto altre vesti, quello di Tazio Iacobacci, però nelle playlist ritrovavate il nome Tellaro. Ecco, si sono messi assieme, hanno deciso di darsi nome Feldman e hanno inciso un disco molto intimista, emblematica per esempio la traccia che io ho scelto, la numero 4, dal titolo Golden Ring. Thank you. Fu allora che vidi il pendolo. La sfera, mobile all'estremità di un lungo filo fissato alla volta del coro, descriveva le sue ampie oscillazioni con isocrona maestà. Io sapevo, ma chiunque avrebbe dovuto avvertire nell'incanto di quel placido respiro, che il periodo era regolato dal rapporto tra la radice quadrata della lunghezza del filo e quel numero pi greco che, irrazionale elementi sublunari, per divina ragione lega necessariamente la circonferenza al diametro di tutti i cerchi possibili. Così che il tempo di quel vagare di una sfera dall'uno all'altro polo era effetto di una arcana cospirazione tra le più intemporali delle misure, l'unità del punto di sospensione, la dualità di una astratta dimensione, la natura ternaria del pi greco, il tetragono segreto della radice, la perfezione del cerchio. Questo era l'incipite del pendolo di Foucault di Umberto Eco. Hey man, why save that hardship for the older you? Take it on now. On the younger you, don't be afraid. When you fear your courage has been mislaid, don't fret the flight on a dark and dangerous night. You're here to say, you're not here to stay. Deliver us only this day. Hey man, why save that worry for the older you? Take it on now, on the younger you. Don't panic your heart for the hard time. Don't tremble and quake. Keep a steady float in the overwhelming wave. You're here to say, not here to stay. Deliver us only this day. Hey man, why save that overbearing weight? Older you, go on and take it on now, upon the stronger you. You're here to say, not to stay. Deliver us only this day. L'altro giorno ho preso una topica incredibile, pensavo che sarei stato massacrato, per ora non è successo ancora niente, ho troppo distratti, oppure vi fidate ciecamente di me, qualunque cosa io dica, anche se tutti i libri e i siti riportano il contrario. Avevo detto How Gelb come ex calexico. Ok, Giant Sand, lì ci siamo, e altri due Giant Sand hanno formato il calexico. Comunque How Gelb, che ci siamo appena ascoltati in questo progetto Snow Angel, dal quale più volte era passato nel From the Sky, Like You, il titolo dell'album. Questa sera invece, sempre con il coro gospel canadese dei Voices of Praise a dargli una mano, ci siamo ascoltati la traccia numero 4 dal titolo Voices of Praise. E anche per quanto riguarda questa seconda parte di Eclettica, Giulio Caperdoni è arrivato dalle parti dei saluti, ci manca un brano per poter considerare completamente chiusa questa seconda parte, però vi voglio dire anche in onda una cosa che già ho detto in lista nera, ovvero sia del compito di questa settimana. L'ho lanciato sabato, probabilmente c'è stato poco tempo per meditarlo, perché chiaramente più passa il tempo più i compiti diventano siano difficili, quindi mi rendo conto che diminuirà il numero di coloro che accetteranno di cimentarsi e magari le cose scritte non saranno ritenute così di qualità. Infatti in questi pochi giorni non penso, a parte uno che mi sto tenendo da parte, di aver ricevuto materiale sufficiente in numero e in qualità per iniziare a leggerlo, perché leggerne solo uno mi sembrerebbe veramente poca cosa. Quindi lancio anche in onda il tema di questa e presumo anche della prossima settimana, che dovete sviluppare come compito a casa, e il tema è quello del concerto, il concerto che più vi ha deluso, quindi probabilmente un concerto per cui avevate grandi aspettative che non sono state perlomeno completamente soddisfatte. Quindi andate a raccogliere i vostri ricordi. L'unico racconto che è molto bello, mi è piaciuto veramente, è veramente molto, l'unico racconto che ho e che ho già deciso di leggere ma sto tenendo lì nel cassetto, riguarda un concerto di De Gregori. Vi dico questo anche appunto per farvi capire come si può spaziare in tutti i generi, anche in artisti che magari non compaiono, penso non sia mai comparso in 12 anni nelle playlist di Eclettica il nome di Francesco De Gregori. Potrebbe forse darsi con qualche profumo di vinile, sono sicuro che c'è qualcuno fra voi che in questo momento già sa se ho sbagliato o meno. Chi ascolta da tanti anni ascolta con molta attenzione. Vi dicevo ancora un brano per chiudere, un brano che esce come l'intero album per primo in Italia nel mese di aprile grazie alla Ghost Records. Loro sono inglesi di Norwich per la precisione, si chiamano Phil Garvey, poi usciranno da giugno in poi anche nel resto del mondo un album intitolato Caught Laughing, dal quale noi ci ascoltiamo la traccia numero 3, The Palace Lights. I don't know why she should sing. Saw you lift her off the sea again. It took 10 men to drag her up the beach. She cried and railed against the meat. Looks like she could use a day to find the best way to go. Fine della seconda parte.